748. Rosolio di Anaci. Si fa nella stessa guida del precedente. L'infuso, invece di scorza di limone, fatelo con grammi 50 d'anaci di Romagna. E dico di Romagna perché questi, per grato sapore e forte fragranza, sono senza esagerazione i migliori del mondo. Ma prima di servirvene, gettateli nell'acqua per nettarli dalla terra che probabilmente contengono, essendove bella posta frammista per adulterar quella merce. Fu uno scellerato che io ho conosciuto, perché era dagli onesti segnato a dito, colui il quale trovò per primo quella infame industria. Saranno ormai 60 anni. Coloro che seguono le sue tracce sono molti. Si servono di una terra cretacea del colore stesso degli anaci, la mettono in forno a seccare, poi la vagliano per ridurla in granelli della grossezza medesima e la mescolano a quella merce nella proporzione del 10 e fino al 20%. Qui verrebbe opportuna una tiratina di orecchi a coloro che adulterano per un vile malinteso guadagno i prodotti del proprio paese, senza riflettere al male che fanno, il quale ridonda il più delle volte a danno di loro stessi. Non pensano allo scredito che recano alla merce, alla diffidenza che nasce e al pericolo di alienarsi i committenti. Ho sempre inteso dire che l'onestà è l'anima del commercio, e Beniamino Franklin diceva che se i bricconi conoscessero tutti i vantaggi derivati dall'essere onesti, sarebbero galantuomini per speculazione. La mia lunga esperienza della vita mi ha dimostrato che l'onestà nel commercio e nelle industrie è la più gran virtù per far fortuna nel mondo. Un soldato del primo impero mi diceva di aver letto sul barattolo di uno speziale a Mosca, Anaci di Forlì. Non so se fuori d'Italia siano conosciuti con questo nome, ma i territori ove si coltiva questa pianta della famiglia delle ombrellifere sono esclusivamente quelli di Meldola, di Bertinoro e di Faenza verso Brisighella.